Ciao a chi ascolta Radio Big World, siete per la terza puntata collegati con Pasquale che tratterà un argomento relativo a mescolare acqua e vino, che significa appunto mescolare cose differenti per ottenere qualcosa di buono che faccia il meno male possibile. Allora, oggi vorrei riflettere insieme a voi sull'argomento del lavoro. Il lavoro è fondamentale nella società di oggi, cioè per forza da sempre, dall'uomo primitivo che insieme agli altri ammazzava i mammut per impossibilità di farlo da solo e consumava quella preda per garantirsi la vita insieme agli altri, perché tutti avevano lavorato a catturare la preda, indica che da quando l'essere umano esiste, e prima ancora dell'essere umano, gli esseri che erano sulla terra, come i microrganismi, i grandi dinosauri, gli animali dell'acqua. Tutti avevano bisogno di riempire, hanno avuto bisogno di riempire le loro giornate con qualche attività che procurasse loro la sussistenza e forse anche il piacere di vivere quell'esperienza che stavano facendo sulla terra. Allora, il lavoro bisogna sia qualcosa che, nato nel tempo, continua nel tempo, per darci la possibilità di vivere in maniera gradevole questa esperienza che stiamo facendo sul pianeta Terra. Il lavoro, il primo aspetto da considerare è che il lavoro non può essere una cosa, un'attività, un pensiero che ci isola dagli altri, perché tutto quello che facciamo ha ricadute sulla società, quindi ci collega agli altri. Cioè, se leggiamo un libro, che apparentemente non è lavoro, è divertimento, se vediamo un cinema che ci rilassa e ci fa ridere, apparentemente non è lavoro, ma è divertimento. In realtà è qualcosa che noi facciamo per valorizzare, migliorare la nostra esistenza e per mettersi in relazione con gli altri. Quindi utilizzerei l'uguaglianza tra la parola lavoro con la parola socialità. La socialità significa lavorare tutti insieme, gli uni per gli altri. Allora, il lavoro non può essere qualcosa di pesante nella vita dell'essere umano, perché se è gradevolezza sociale, non può essere qualcosa di pesante. Invece, si sperimenta che alcuni tipi di attività che noi chiamiamo lavoro sono duri, nel senso sono sporchi e l'essere umano repelle lo sporco, sono pesanti e l'essere umano repelle la fatica eccessiva. Questi qui, più che lavori, sono attività che la società umana di oggi ha creato e che non sono proprio a favore della società. Ad esempio, pulire le fogne di una città o di un paese non è sicuramente gradevole, sia per l'angustia delle fogne, sia per i cattivi odori, sia per lo sporco che ce ne viene addosso. Allora, diciamo, le fogne ci vogliono, certo che ci vogliono, però si può concepire al momento di creare quella struttura indispensabile per il vivere sociale, si può concepire un modo di costruirla oppure un altro modo. Se ci sono tanti automatismi che rendono la possibilità di far fluire il liquame in maniera che o non si depositi, oppure che si autodepuri, insomma, che non abbia bisogno dell'intervento dell'essere umano. Se nel momento in cui si era progettato e costruito questo sistema si fosse considerato che qualcuno doveva poi pulirlo e che questo qualcuno era un rispettabile come quello che aveva progettato la struttura, probabilmente le nostre fognature sarebbero differenti e non ci sarebbe il lavoro odioso di manutenzione e di pulitura. Allora, questo qui significa che quei lavori che sono meno gradevoli sono lavori creati male da qualcuno che non considera le relazioni sue con la società che lo circonda. E questo qui si vede su tantissime cose. Un altro aspetto è, per esempio, la macellazione degli animali per il nutrimento umano. Un altro aspetto è la coltivazione di determinati prodotti alimentari che porta dei rischi grossi per chi poi li adopererà. Quello non è lavoro, ma è un lavoro, diciamo, da inserire nel libro nero, nel libro dei cattivi, nel libro di quelli che non fanno per la società, ma fanno solo per sé. Allora, il lavoro c'ha un altro aspetto importante, che è quello della remunerazione, che in qualche maniera avviene sempre, avviene con la gratificazione degli altri, avviene con la preminenza di chi produce il lavoro rispetto agli altri e principalmente avviene con la gratificazione economica. Cioè, insieme al lavoro è nata la moneta, i soldi, la valuta. E questo, a parer mio, è un aspetto molto limitante della gradevolezza del lavoro, perché quando si remunera un lavoro si dà un giudizio che non è assolutamente indipendente, ma è legato a quello che la società pensa in quel momento del lavoro e della moneta. E se ci pensate bene, la moneta è solo, più che solo, principalmente un mezzo di predominio di un gruppo di persone sulla maggioranza degli uomini, delle persone civili che utilizzano questo strumento. Perché io vi dico le mie riflessioni, che credo siano abbastanza realistiche, ma se qualcuno le ritiene assolutamente errate oppure troppo fantasiose, mi farebbe piacere se si confrontasse, mi informasse, mi esprimesse i propri pareri. Allora, cos'è questa moneta? Cos'è questa moneta? Un giorno il signor Paolo, ragazzo di 30 anni, ha detto: io voglio mettere su una panetteria perché è un lavoro che mi piace, è un lavoro che ho imparato nella mia famiglia, è un lavoro che mi darà la tranquillità per il resto della mia vita, nel senso che potrò guadagnare, potrò nutrirmi, potrò relazionarmi. E che ha fatto questo signore? È andato da una banca e gli ha detto: mi presti, mi dai dei soldi perché io voglio comprare la macchina per impastare il pane e non c'ho soldi, e questi soldi te li renderò. La banca gli ha detto: sì sì, vieni, questo è una cosa che io faccio con tutti quelli di cui mi fido, con quelli che so che avranno un avvenire economico, eccetera. Quanto vuoi? 100.000 euro. Bene, 100.000 euro si crea questa struttura. Ma i soldi della banca cosa sono? Purtroppo non corrispondono a un valore, a una realtà, a qualcosa di fatto, ma sono soltanto uno scambio tra un gruppo di persone che ha deciso di testimoniare che quella moneta, quell'euro che ti ha prestato, significa che hai diritto a avere una quantità di lavoro a tuo favore corrispondente a un euro. Quindi dietro a quella moneta non c'è una produzione e il valore dato a quella moneta non è reale, ma è segue l'interesse del momento. Questa attività si chiama finanza. La finanza non gioca su un euro, non presta 100.000 euro, ma smuove enormi capitali e condiziona il vivere delle persone con queste operazioni, non avendo in realtà creato nessun lavoro. Allora si paga, si retribuisce il lavoro con un mezzo che di per sé non è reale, non ha valore, ma è solo fittizio. Quindi bisogna stare attenti quando si lavora e ci si relaziona con gli altri a instaurare veramente una relazione che è: io ti do un chilo di pane, te tu mi dai mezzo chilo di zucchine lesse, io ti do un chilo di pane, te tu mi dai una parte di soldi che sono necessari per comprare le scarpe a mio figlio, io ti do un chilo di pane e te tu mi dai dei soldi che mi servono per andare a passare le ferie in un posto più bello di dove abito abitualmente. Allora, il lavoro, che di per sé è una relazione sociale, specialmente nella società di oggi e forse anche in quelle passate più di oggi, questo non lo so, è uno strumento indispensabile per vivere, ma pericolosissimo da gestire. Perché se è vero che ogni lavoro è utile, se è vero che ogni lavoro si differenzia da un altro per la preparazione, per la tecnica più o meno affinata che richiede, per le capacità personali che richiede, è però anche vero che non possono esistere delle differenze enormi nella retribuzione del lavoro. Cioè, non è accettabile che il lavoro pagato nella raccolta dei pomodori renda 3 euro all'ora e il lavoro fatto da un finanziere renda 300.000 euro al giorno. Allora cosa si fa? Perché bisogna essere concreti. Io ho pensato alla mitragliatrice laser. La mitragliatrice laser, immaginatelo questo strumento che emette raggi laser. A che serve? Non lo so, emette raggi laser. Allora si prende la mitragliatrice laser, si punta con alzo 30.000 euro al mese e si mette in azione. Cosa succede? Non lo so. Però è sicuro che quando io vedo una persona che ha un reddito così elevato rispetto alla media comune, mi rendo conto che quella persona nella società ha un peso estremamente negativo. Eppure c'è, è vero, avviene, questo c'è. Come si fa a ripianare? Non lo so, però una mitragliatrice laser alzata 30.000 euro al mese, secondo me può fare qualcosa. Ma quello che è terribile è che una volta utilizzata la nostra mitragliatrice laser, nella testa di altre persone rimarrà l'idea che è importante sfruttare l'uomo, perché il nostro orgoglio, stupido perché non ci dà la qualità della vita, perché il nostro orgoglio ha bisogno di farci sentire meglio degli altri che ci stanno vicini. Io mi rendo conto di non essere stato molto chiaro. Ho espresso delle sensazioni più che dei ragionamenti o delle osservazioni tecniche. Però se questa comunicazione di emozioni, di sensazioni, può avere smosso l'anima, il pensiero di qualcuno degli ascoltatori, di te che oggi ascolti Radio Big World, e se puoi contattare in qualche maniera la radio per esprimere il tuo pensiero su quello che hai sentito in questi 10 minuti di parlare, a me farebbe molto piacere, perché io ho tante certezze, ma le incertezze superano abbondantemente le mie certezze. Ti saluto, caro ascoltatore, e alla prossima puntata. Ciao, e da Pasquale e da Radio Big World.